in primo piano. Buongiorno, buon lunedì, buon 31 luglio, ultimo giorno di questo lungo mese. Buongiorno da Giulia Crivelli e con questa settimana, appunto, come avete sentito settimana scorsa, Alessandro Milan e 24 Mattino non ci sono in agosto. Poi in settembre sapete che ci sarà un palinsesto un po' diverso. Comunque da oggi appunto faremo questa rassegna stampa dei quotidiani italiani al mattino verso quest'ora, alle 7:10 circa. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che sapete il lunedì è proprio un numero di approfondimento. Avete sentito adesso nel GR questa questione di come usare il contante durante le vacanze con il contributo di Dario Acquaro. La copertina però del Sole 24 Ore è dedicata a un altro tema che tocca moltissime persone, è trasversale un po' a tutti, anche perché si inserisce nel grande tema delle pensioni. Qui in questo paese siamo in perenne riforma delle pensioni. In questo caso il Sole 24 Ore si occupa delle casse dei professionisti e trovate poi tutto a pagina 2 e 3. I pensionati aumentano più dei contribuenti, questo è un altro trend legato naturalmente alla questione demografica che c'è nel nostro paese. Per ora i bilanci sono in equilibrio, ma pesa il boom delle cancellazioni e c'è tutta un'analisi delle categorie. E poi una questione molto pratica, perché sappiamo che il decreto sulla vaccinazione obbligatoria è passato alla Camera. Adesso però bisogna metterlo in pratica, e a metterlo in pratica sono chiamate le regioni, perché è una questione sanitaria e sapete che la sanità in Italia sostanzialmente è federale. Quindi i vaccini tocca alle regioni. In Piemonte e Veneto si punta su MS Web, ma c'è un'incognita costi. Adesso parte un censimento sul territorio, tenendo conto, come sappiamo, che in Italia agosto è un mese in cui quasi tutti vanno in vacanza. Quindi vedremo poi al ritorno, perché la vaccinazione è obbligatoria per poter mandare i bambini a scuola, vedremo come se veramente si riuscirà ad attuare questo decreto. Da oggi inizia uno delle serie di appuntamenti del Sole 24 Ore, oltre all'Esperto Risponde, che c'è sempre in edicola al lunedì, con il lunedì, e sappiamo che appunto è dedicato soprattutto a fisco e vacanze e con un focus sull'utilizzo del contante, specie all'estero. C'è una serie che appunto inizia oggi, che si chiama L'agenda del professionista, e la prima puntata è sullo famoso split payment. Che cosa cambia dal primo luglio? Le regole per i fornitori con gli obblighi della pubblica amministrazione. Ci fermiamo però un attimo per una prima pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. Vi ricordo anche, se volete, non sono su WhatsApp, a proposito di WhatsApp, ma ho un account Twitter che è @Giulia_Crivelli. La prima pagina del Corriere della Sera, il Venezuela finalmente ce la fa oggi a conquistare quasi tutte le prime pagine dei giornali. Per il Corriere della Sera è proprio un richiamo, e poi addirittura le pagine 2 e 3 nel cosiddetto palchettone, cioè lo spazio subito sotto la testata, è un lungo reportage di Rocco Cotroneo, Il voto tra sangue e caos, perché come avete sentito anche nei GR sono 12 i morti finora, ma soprattutto questo voto con un'affluenza bassissima anche a causa delle violenze è ancora un'incognita, le conseguenze di questo voto. Abbiamo segnalato la questione demografica riguardo alle pensioni e alla situazione delle casse dei professionisti. L'intervento di Massimo Gramellini oggi, che come sapete al lunedì non c'è il suo caffè, però a volte pubblica questi editoriali, è dedicato proprio alla crisi demografica. L'Italia è il paese occidentale dove si fanno meno figli insieme al Giappone, ma è una questione che riguarda anche per esempio la Germania. Perché non facciamo più figli? Il titolo dell'editoriale di Massimo Gramellini. Poi ci sono due fotonotizie dedicate ai successi sportivi di ieri: da una parte la Ferrari che ha trionfato al Gran Premio di Ungheria e dall'altra l'oro un po' a sorpresa, o così viene definito, di Gregorio Paltrinieri, che ha vinto nei 1500 stile libero, lo avete sentito nel GR. Il titolo principale però E io veramente mi aspettavo un po' questo, perché trovo che sia davvero una situazione da guerra fredda per chi non l'ha vissuta, perché è giovane, tutto quel periodo che a partire, diciamo, da dopo la ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale, in cui appunto c'era questa guerra definita fredda perché non era conclamata, ma erano rapporti tesissimi tra gli Stati Uniti e la Russia e l'allora Unione Sovietica, e in generale l'Occidente e tutto il blocco sovietico. Ora torna questo clima perché Putin ha espulso 755 diplomatici americani come risposta alle nuove sanzioni decise dal Congresso. Come vi dicevo, però, pagine 2 e 3 sono tutte dedicate a Caracas, al voto in Venezuela, alla crisi in Venezuela. Come ogni lunedì con il Corriere della Sera, il supplemento L'Economia, che ha cambiato un po' veste grafica, anzi senza un po', ha cambiato veste grafica, ma ha cambiato anche nella sostanza da quando il Corriere della Sera è passato sotto il controllo di Umberto Cairo. Una delle tante novità che ha introdotto è questa, e la copertina è sempre dedicata a un personaggio con una grande fotografia, questa a cui segue naturalmente intervista o approfondimento all'interno. Questa settimana è Sandro Veronesi, fondatore del gruppo Calzedonia, che in realtà adesso possiede molti marchi, non soltanto Calzedonia, ma come forse sapete, intimissimi Tezenis, Falconeri per i filati pregiati, Signor Vino addirittura, che è una catena di bar che offrono però soprattutto vino e cibo, snack. Il suo gruppo ha superato i 2 miliardi di fatturato, è uno dei più grandi in Italia. Adesso, come anticipa il Corriere Economia, la prossima mossa è affrontare il difficilissimo mercato americano e poi investire ancora di più in quello cinese. Mister Calzedonia, l'ho scritto anche al Papa, il lavoro c'è, ma bisogna cambiare. La Repubblica ha una fotonotizia divisa in due, come per il Corriere. Da una parte Sebastian Vettel, che è sul podio del Gran Premio di Ungheria, che gioisce in un modo, diciamo, molto muscolare, stringendo i pugni, stringe i pugni ma con un sorriso e con un'espressione ancora, un'espressione facciale ancora diversa, invece la gioia di Gregorio Paltronieri. Vi segnalo però che la Repubblica sceglie di non titolare sulla questione americana, anzi occupa uno spazio molto piccolo sulla prima pagina. Invece c'è un approfondimento di Sergio Rizzo, che sapete per tanti anni è stato al Corriere della Sera, poi scriveva, è autore anche di tantissimi libri insieme a Gian Antonio Stella, e ora è passato a Repubblica. Continua a fare queste inchieste in cui è specializzato, diciamo, sulle cose che in Italia non vanno, e i suoi articoli sono quasi sempre, per citare Alessandro Milan, da mani sul volante. Ora il focus è sui condoni locali. È in arrivo una nuova ondata. Ultimo sfregio legalizzato sulle spiagge sarde, villette, cantine, la mappa delle sanatorie. Le famose sanatorie, i famosi condoni. In Italia c'è questo vizio molto antico di comunque violare le leggi, specie in materia edilizia, perché si sa, si spera, ma quasi si sa, visto i tanti troppi precedenti, che poi prima o poi un condono arriva. Grazie all'ascoltatore che mi dice: in realtà Paltrinieri non è una sorpresa, no? Mi riferisco al fatto che lui stesso diceva: non ci credo, perché non credevo veramente di farcela in questa gara, e soprattutto non credevo subito dopo la partenza, e invece ce l'ha fatta. E quindi sorpresa, in effetti forse non è stata la sua, è solo un po' così un commento tra il metà tra la modestia e un po' la scaramanzia. In ogni caso, grazie ancora a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349 238 6666, e come sempre io ho questo terribile vizio, mi ci applico, ve lo giuro, a migliorarlo, che sbaglio ogni tanto i nomi, e quindi Urbano Cairo, non Umberto, certo. Il Messaggero inevitabilmente apre sulla questione romana: caos, conti a Roma, crepe in giunta, perché da una parte ci sono i dati di fatto, cioè l'ATAC che è sull'orlo del fallimento, oltre ad essere in questo momento senza un vertice dopo le dimissioni del direttore generale Bruno Rota, ma ci sono anche molte tensioni all'interno della giunta, non soltanto con gli assessori direttamente interessati alla questione dell'ATAC, l'azienda dei trasporti, e della CEA per quanto riguarda l'acqua. Adesso c'è anche una tensione con l'assessore al bilancio. Il sindaco Virginia Raggi ha detto all'assessore al bilancio Andrea Mazzillo: ritratta le valutazioni negative o sei fuori. E Casaleggio stesso, Casaleggio, ha detto effettivamente questo assessore è appeso a un filo. Oscar Giannino, che appunto in questo momento non sarà poi subito dopo di noi, perché come dicevo la programmazione di agosto è leggermente diverso, lo ritroverete poi a settembre, però sapete lui collabora anche con Il Messaggero, è suo l'editoriale di oggi: spegnere subito la miccia ATAC ed evitare il default, la bomba bilancio, perché sono i conti dell'intero comune di Roma appunto che sono di nuovo a rischio. La fotonotizia è dedicata a Putin, mentre nel palchettone, quindi lo spazio sotto la testata, ci sono i due successi: da una parte Paltrinieri a Budapest, dall'altra la doppietta Ferrari sempre a Budapest nella Formula 1. Fotonotizia dedicata a Putin, la foto è di Putin in primo piano, sullo sfondo ci sono i militari, quindi durante una parata, via dalla Russia 755 diplomatici degli Stati Uniti. La Stampa, fotonotizia forse più grande ancora di quella del Corriere della Repubblica, dedicata ai successi sportivi di ieri, ma la pagina principale si riferisce alle dichiarazioni fatte ieri a Marina di Pietrasanta durante un incontro da Matteo Renzi. La Stampa definisce le parole di Renzi a fondo di Renzi, dice: con Macron abbiamo avuto un governo debole, poi naturalmente ha precisato: non è colpa di Gentiloni, ma l'orizzonte ha un orizzonte, ma l'esecutivo ha un orizzonte breve. E questa questione del fatto che Macron sia appena entrato in carica abbia un mandato molto forte, anche se sappiamo che a una settimana dal voto il suo gradimento è già calato di 10 punti, che non sono poco, ma resta questa vittoria su cui lui può contare, questa forte maggioranza in Parlamento. Dall'altra parte invece sappiamo, noi abbiamo un governo oggettivamente debole, nel senso che non è un governo scaturito da elezioni, ma come sappiamo dalle dimissioni del premier Renzi, che a sua volta non veniva da un'elezione, ma era a sua volta un governo che ne rimpiazzava un altro per dimissioni dell'allora premier Letta. In questa situazione di debolezza, secondo Matteo Renzi, l'Italia non riesce e non riuscirà a negoziare, per esempio, con la Francia su questioni come quella di Fincantieri o della Libia, o di, per esempio, anche di Vivendi, che è l'altra grande questione economica che vede, coinvolte un'azienda italiana e un'azienda francese. Piccolo spazio per il Venezuela, e poi cronaca pagina 22, Venezuela, la rivoluzione in frantumi. Anche il secolo XIX, che diciamo è anche un po' direttamente coinvolto perché una delle grandi sedi di Fincantieri naturalmente è a Genova, apre sulla questione di Fincantieri e prende spunto da queste parole che ha detto ieri Matteo Renzi: Italia debole su Fincantieri. La fotonotizia però in questo caso è dedicata proprio al Venezuela. Venezuela al voto nel sangue, scontri anti-Maduro, qui si parla di 8 morti, in realtà sappiamo che purtroppo sono 12. E vediamo la Gazzetta dello Sport, assi rossi, la fotonotizia lunga e stretta è dedicata al doppietto della Ferrari, poi da una parte c'è il nuoto e dall'altra ci sono tutte le partite di calcio dell'estate e anche tutto il calciomercato di nuovo. Bisognerà arrivare, vi comunico comunque, alla pagina 34 per trovare poi le notizie approfondite sul nuoto, mentre subito da pagina 2 a pagina 7 c'è tutto quello che riguarda la Formula 1 e poi il calcio. La prima pagina del giorno ve la segnalo perché ha un'apertura ancora diversa: poveri prof, e poi le inchieste a pagina 2 e 3. I nostri professori, i nostri insegnanti sono i meno pagati d'Europa, lo stipendio dei docenti italiani è del 30% sotto la media e negli ultimi 10 anni è addirittura sceso del 7%. Dall'anno prossimo la busta paga salirà però di 85 euro lordi. Sappiamo che una delle tante riforme che in realtà non è nuova, ce ne sono state nel corso degli anni una dopo l'altra, però è di nuovo in una fase di, speriamo, rivoluzione positiva, è la scuola. E vediamo appunto un primo effetto molto pratico è questo aumento di 85 euro lordi, ma naturalmente c'è dietro tutto un bisogno di riorganizzazione. Il Fatto Quotidiano titola su Roma: la Raggi ha una grana al giorno, adesso l'assessore vuole l'ATAC privata. E Beppe Grillo e abbiamo visto anche Davide Casaleggio si sono scagliati contro Mazzillo, l'assessore che secondo il Fatto appunto vorrebbe questa ATAC privata, l'assessore al bilancio, la sindaca, titola il Fatto Quotidiano, prova a mediare. Il Giornale ha un'apertura ancora diversa su un orribile fatto di cronaca di ieri: immigrato stupra anziana, emergenza senza fine. È successo a Bari, un nigeriano ha violentato e picchiato una donna di 75 anni. Il Libero invece focus su Roma: Roma sta per fallire, 5 Stelle trionfa, il mistero dei grillini, perché sappiamo appunto, abbiamo sentito queste notizie che sono oggettive, se poi si vanno a vedere si va a vedere il bilancio nel dettaglio si capisce che il buco di bilancio, il rosso di bilancio del bilancio di Roma è cresciuto di 1 miliardo in questo anno in cui è stata sindaco Virginia Raggi. L'ATAC è morta, sentenza Libero, eppure i prossimi test elettorali, cioè le elezioni in Sicilia e poi naturalmente le politiche che dovrebbero essere nella primavera del 2018, il Movimento 5 Stelle secondo tutti i sondaggi è favorito, da qui il titolo Il mistero dei grillini. In prima pagina viene richiamata poi una lunga intervista che trovate a pagina 6 e 7 a Landini, ex segretario della CGIL, che dice: non mi candiderò comunque alle politiche, e sostiene che conta di più la CGIL del PD. Ma ci fermiamo un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie ancora agli ascoltatori che mandano messaggi, non tutti positivi naturalmente, ma non importa, è giusto così, e all'ascoltatore che mi dice devi essere un po' più precisa sul luogo dello stupro: in effetti non è Bari, ma è Gioia del Colle, che è una località vicino a Bari, a una quarantina di chilometri da Bari, con circa 30.000 abitanti, e mentre la vittima di questo stupro è una donna di 75 anni, l'autore è un nigeriano di 26. Ci manca la prima pagina del Foglio, che come altri giornali al lunedì è un po' un numero di approfondimento, e vi segnalo in questo caso l'articolo di Giuliano Ferrara sugli Stati Uniti, e lo trovo interessantissimo perché, come spesso ho avuto occasione di dire, è molto difficile per noi giudicare perché è stato eletto Donald Trump, anche se lo ricordiamo con meno voti, anche uno scarto minimo, ma meno voti popolari di Hillary Clinton, quindi è stato comunque un voto che ha diviso l'America di fatto in due. Ma è difficile capire anche un po', come forse il Libero diceva dei grillini, il mistero dei grillini, perché vedremo se questo peserà poi sul prossimo test elettorale, che è quello delle elezioni di midterm. Da qui vi segnalo appunto l'articolo di Giuliano Ferrara, che si intitola La decomposizione di una repubblica. Altro che Nixon e Kissinger. Alla Casa Bianca c'è un pazzo solo al comando. Il peggio è che è esattamente quello che si aspettavano e volevano i suoi elettori. Vi leggo la prima parte e poi continuo a pagina 2 del Foglio di oggi. Magari fosse una crisi costituzionale. Con Richard Nixon fu così che andò. Ostruzione della giustizia e solo poi caos e vergogna nazionale. Punto. Nixon aveva fatto passi da gigante in campo diplomatico, cambiando l'ordine mondiale con il favoloso viaggio in Cina, e aveva fronteggiato con decisione il mutamento delle ragioni di scambio tra paesi produttori di petrolio e no, la grande turbolenza iniziata nel 1973. Ma il punto più importante è che nessuno tra coloro che avevano votato Nixon e messo Henry Kissinger, dico Kissinger, al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, nessuno si aspettava quei comportamenti, nessuno era disposto a tollerarli, né tra i democratici né tra i repubblicani. Soprattutto l'opinione americana generale era basita, frastornata, incredula. Ora non è così. Trump non ha realizzato alcunché, né dà segno di poterlo fare, a partire dalle relazioni con il Congresso per finire con il suo impatto su alleati e avversari nel mondo. Muro, infrastrutture, sanità, piano fiscale, immigrazione, è tutto per aria. E l'unica notizia dalla Casa Bianca è da 6 mesi la Casa Bianca stessa trasformata in un bordello familista e in un alberghetto malfamato, teatro di ripicche, risse, lotte intestine, licenziamenti, doppi giochi spericolati, attacchi alle libertà civili, fughe dalla realtà e dalla responsabilità. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani, torniamo sul Sole 24 Ore. Qui a Radio 24 spesso con trasmissioni di approfondimento ci si occupa dei fondi che possono aiutare le regioni, sia europei sia i fondi appunto destinati per come è fatto il federalismo nel nostro paese alle regioni. Micaela Cappellini ci racconta: fondi regionali per l'export valgono 81 milioni, il più munifico è il Trentino Alto Adige con oltre 27, la Sicilia è fanalino di coda a 0 contributi. E poiché sappiamo che è stato l'export negli ultimi anni, e tra l'altro ogni mese battiamo un record sull'export, è stato l'export a trainare la nostra economia, diventa un'occasione veramente di riflessione capire perché una regione come la Sicilia, che per esempio in agricoltura credo avrebbe grandissime potenzialità, ha così pochi fondi all'export, perché le aziende poi non li chiedono o tra virgolette non li meritano, nel senso rispondono ai requisiti che per l'erogazione di questi fondi. Come ogni lunedì sul Sole 24 Ore, la pagina dedicata ai motori, la prova su strada di questa settimana è dedicata a un'auto Porsche Panamera, si chiama. Io non capisco molto di auto, quindi qui ve lo segnalo, ma qui mi fermo per non dire sciocchezze. Vi segnalo dalla prima pagina dal Corriere della Sera, pagina 9, un'intervista richiamata in prima pagina, un'intervista al ministro Graziano Del Rio per le infrastrutture, tratta da Alessandro Trocino, intitolata Rota è bravo, devono ascoltarlo, lo Stato non darà altri fondi. La questione naturalmente è quella di Roma. Bruno Rota, come sapete, è stato dimesso da direttore generale dell'ATAC, l'azienda dei trasporti, e era un uomo di grande esperienza nel settore perché aveva ricoperto lo stesso ruolo all'ATM qui di Milano. L'altra notizia, se volete, è questa dichiarazione di Del Rio. Vorrei tenermela questa pagina, comincerò a farlo per vedere se veramente poi succederà, che lo Stato non darà altri fondi per il dissesto di Roma, in particolare in questo caso per il dissesto dell'ATAC. Vi segnalo anche un ritorno, lo trovate anche sul Secolo XIX, perché poi la vicenda è successa a Genova, e la ragazza che è morta per una pasticca di ecstasy, Adele De Vincenzi, che aveva solo 16 anni, era di Chiavari, vicino a Genova, e Giusy Fasano è andata a Sestri Levante a Genova e ha parlato con il genitore di uno dei due ragazzi che ha venduto l'ecstasy a questa ragazza. Mio figlio ha sbagliato ma non spaccia, vorrei abbracciare il padre di Adele. Alla vicenda è dedicato il commento del vice direttore del Corriere della Sera Antonio Polito, sempre a pagina 14, dobbiamo smettere di considerare normale lo sballo, perché tutto questo naturalmente è successo di venerdì sera, nella notte tra venerdì e sabato, specie appunto quando le scuole chiudono, oltre a uscire al sabato sera, molti ragazzi escono al venerdì sera con corredo di ecstasy o di altre droghe, e l'ecstasy è una delle più pericolose, anche perché, come dicevamo ieri, come ci spiegano gli esperti, sono pasticche, vanno sotto questa etichetta di droghe sintetiche, ma ce n'è di tutti i tipi, e naturalmente è impossibile capire, a meno che ci si fidi ciecamente dello spacciatore, quanto forte è la pasticca che si compra. Questa notizia a pagina 15 è una notizia sull'omofobia, e la trovate su tanti altri giornali, e non lo so, io, come ho avuto altre occasioni di dire, credo che l'omofobia, un po' purtroppo come l'antisemitismo, sia veramente difficilissima da sradicare, e questa vicenda lo conferma ancora una volta. Salta fuori un video omofobo di un candidato dei Giovani Democratici, candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Ancona, che ha fatto un video veramente omofobo, ma non c'è un'altra parola. Lo ha messo in rete 4 anni fa, adesso naturalmente dice che è stata una scemenza, che si pente, usa la parola goliardata, e ne è poi naturalmente un tranello politico per questa grande congiura, per scongiurare la sua candidatura alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Ancona. E non ritira la candidatura, non fa un vero mea culpa. Comunque, ripeto, è una cosa, a parte il video, se volete potete vederlo sul sito www.gaypost.it, ma comunque trovate la notizia su quasi tutti i giornali. Forse vi ricordate, abbiamo segnalato l'articolo di Gian Antonio Stella sui sindacati e sulle pensioni dei sindacalisti. Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, si è sentito in dovere o in diritto di replicare, e la sua replica la trovate a pagina 27 del Corriere della Sera. È ancora però più divertente, perché qui tanto vale sorridere amaro, perché Barbagallo difende queste pensioni d'oro dei sindacalisti, che secondo me sono indifendibili, e entra in aperta polemica con Tito Boeri, presidente dell'INPS, che secondo Barbagallo si è intromesso nella trattativa in corso sulla fase 2 della previdenza. Cioè, il presidente dell'INPS parla della riforma della previdenza e Barbagallo la considera un'intromissione. Per questo dico sorridere amaro, ma vi leggo la replica invece di Gian Antonio Stella. Alla larga dalla polemica tra Barbagallo e Boeri, lasciamo il giudizio ai lettori, che però possa essere stata non un privilegio ma una conquista sindacale, perché così la chiama Barbagallo, positiva e magari un po' romantica, poter quadruplicare negli ultimi 2 anni la paga sindacale per andare poi a calcolare sull'ultima pensione messa a carico dei cittadini fa sorridere. E quanto alla circolare, circolare dell'INPS, che sempre Barbagallo definisce arbitraria, per mettere ordine negli abusi, l'articolo spiegava: su questi abusi una sentenza c'è. Per applicare una sentenza basata su leggi esistenti occorre una nuova legge, magari contrattata coi sindacati. Visto che parlavamo di crisi idrica, soprattutto a Roma, in realtà trovo interessante questo articolo di Cecilia Gentile, perché tutti possiamo, a parte l'acqua viene definita l'oro blu da tanti anni perché sarà uno dei beni più scarsi e più preziosi nei prossimi anni, ma Cecilia Gentile ci spiega come tutti possiamo fare dei risparmi, e risparmiare acqua è sempre un bene, che ci sia o no una crisi idrica, o che ci siano o no acquedotti efficienti, e non ricordiamo come quello, come il sistema di Roma, che ha un tasso di dispersione del 40%. Per esempio, adottando tutti i comportamenti virtuosi che Cecilia Gentile ripercorre, è possibile risparmiare 140 litri al giorno pro capite, quindi 400 milioni di litri al mondo al giorno, se questi comportamenti poi venissero attuati da tutti i romani. E pensate che questo sarebbe 5 volte il prelievo quotidiano dal lago di Bracciano, che è la principale riserva idrica per la città di Roma. Dal Messaggero una pagina intera sulla questione delle nuove regole in mare. Sapete che c'è stata la lunga polemica, tuttora comunque, che non ha portato a un accordo definitivo su come devono comportarsi le navi delle organizzazioni non governative in mare, soprattutto nelle acque libiche, dove c'è in questo momento il maggior afflusso di trafficanti di navi colme di clandestini. Nuove regole in mare, retromarcia delle ONG. Oggi c'è un vertice al Viminale per la firma di questo protocollo, ma mentre all'inizio sembrava che si potesse arrivare alla firma della maggioranza delle organizzazioni non governative coinvolte, adesso circa la metà pare dirà no. E c'è anche un utile schema che fa vedere come sono cambiati i soccorsi nel Mediterraneo. Nel 2015 il 20% erano stati fatti a seguito di avvistamenti in mare, nel 2016 sono stati il 55%, di cui 30,3% dalle ONG, e c'è l'elenco di queste ONG. questa è veramente una notizia. Io non so se Alessandro ci sta ascoltando, se leggerà il Messaggero oggi, ma a proposito di province, pagina 7 del Messaggero: così rinascono le province, per dare servizi ai comuni. Gli enti si sono reinventati fornendo ai primi cittadini progetti chiave in mano. Il governo ha stanziato altri 450 milioni per riaprire 5.000 chilometri di strade chiuse. Perché questa questione delle province, io credo che ci vorrebbe una trasmissione di Oscar, che è sicuramente il più bravo, a mio parere, a fare chiarezza su questioni dove ci vogliono dei dati, ma poi bisogna anche interpretarli. E sappiamo che le province sono un ente intermedio che si voleva abolire per risparmiare. Poi però bisogna vedere le competenze, le cose che facevano le province, chi le deve fare. La riforma delle province qui è riepilogata in 8 punti, in realtà dovevano appunto sparire del tutto, è una sorta di strada all'italiana, come spesso succede, cioè è un ibrido, come vedete poi alla fine gli stanziamenti arrivano e non a enti fantasmi, ma a enti che comunque in qualche modo sono le vecchie province con un po' di maquillage. Dalle pagine interne del Messaggero, tanto per tornare sulla questione dell'ATAC, inchiesta sui permessi sindacali, duravano anche un anno intero. E la procura ipotizza truffa per 15 dipendenti, pensate, in tutto 11.000 ore tolte al lavoro. Le indagini tra l'altro sono state estese anche all'appalto per le gomme, lievitato da 8 a 16 milioni. Tra i punti dell'inchiesta della magistratura sul malaffare o sulla mala gestione dell'azienda dei trasporti romani ci sono le officine, con appunto questa questione dei pneumatici, il doppio lavoro, perché autisti, molti autisti, compreso quello che non si è accorto che una donna era rimasta impigliata nelle porte della metro e ha fatto partire la metro mentre mangiava un panino, lo ricorderete, un fatto di cronaca di circa 2 settimane fa, autisti ma anche meccanici o facchini, il PM Maiorano indaga sul doppio lavoro, e poi le mense, nel mirino anche la gestione delle mense affidata a un'associazione controllata dai sindacati. Ci fermiamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666 e certo Landini è l'ex segretario della FIOM e non della CGIL, FIOM è la parte della CGIL che riunisce i metalmeccanici. A proposito di industria, a pagina 3 un'intervista al presidente di Confindustria che, lo ricordo, è naturalmente l'azionista di maggioranza di questo gruppo, il gruppo Sole 24 Ore, leader di Confindustria, che dice: il patriottismo economico fa male alla salute dell'Unione Europea. La questione è quella di Fincantieri e l'intervista fatta da Fabio Martini. In questa intervista chiede a Vincenzo Boccia: l'improvvisa tensione tra i governi di Italia e Francia non va in una direzione diversa appunto dalla cooperazione europea? Non va nella direzione dell'Europa che immaginiamo. La competizione non deve essere tra i paesi dell'Unione, ma tra tutta l'Unione e il resto del mondo. Tra l'altro, l'operazione Fincantieri va nella direzione dell'impresa europea che dobbiamo imparare a costruire, anche per i benefici effetti strategici che comporta. Perché ricordiamo appunto, se questa operazione andasse in porto, sarebbe comunque un'azienda, diciamo, italo-francese, non completamente italiana. Da qui appunto l'interpretazione di Vincenzo Boccia. Passiamo alle pagine interne della Gazzetta. Come vi dicevo, a partire da pagina 34 trovate tutti gli approfondimenti sulla bellissima vittoria di Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri al mondiale. Tra l'altro l'Italia, questo è stato il miglior mondiale di sempre, mondiale di nuoto per l'Italia. Invece, come vi dicevo, dal secolo XIX, che è direttamente interessato perché il fatto è successo, la ragazza era di Chiavari e il fatto è successo a Genova, la ragazza uccisa dalla pasticca di ecstasy. E così rispondo anche all'ascoltatore che dice che non ha senso dire che ci si può fidare dello spacciatore. Quello che voglio dire è che nessuno prenderebbe una pasticca di ecstasy se lo spacciatore dicesse: guarda che con questa tu muori, e viceversa. Forse si fida dello spacciatore, nel senso che non sta chiedendo una pastiglia per morire. Dopodiché però evidentemente queste, come dicevamo, sappiamo, le droghe sintetiche sono ancora più difficili da controllare come composizione, tra l'altro ne vengono inventate sempre di nuove, da qui la parola che non è piaciuta all'ascoltatore, fidarsi dello spacciatore. Però ripeto, non credo che nessuno, specie ragazzi di 16 anni che comprano una pasticca perché credono che così la serata sarà più divertente e memorabile, pensino di comprare una pasticca che poi li farà morire. Dal Foglio, che al lunedì, come vi dicevo, ha una edizione di approfondimento, questa formula, secondo me, è molto interessante, di dare alcuni numeri sui fatti di cronaca. E così veniamo al Venezuela, perché abbiamo detto, abbiamo segnalato i disordini e la morte di 12 persone in occasione di questo voto che c'è stato in Venezuela, ma vediamo alcuni numeri, perché il Venezuela è in crisi. Inflazione, 21,4% in giugno. 720% è la stima ancora più drammatica dell'inflazione venezuelana avanzata dal Fondo Monetario Internazionale per il 2017. Nel 2018, pensate, sempre secondo l'FMI, potrebbe arrivare al 2000%. 82% la quota della popolazione che in Venezuela vive in povertà, e di questo il 52% è povertà estrema. Una su 12, una famiglia su 12 in Venezuela mangia per strada, dai residui dei ristoranti o dalle pattumiere, da un dossier della Caritas consegnato dai vescovi al Papa durante l'udienza di giovedì 8 giugno. 26,2%, crollo del PIL da quando Nicolas Maduro è presidente, è stato eletto nell'aprile 2013 con un risultato peraltro contestato dal suo avversario. E ultimo numero, 24,6 miliardi in dollari, il valore dell'export venezuelano crollato del 72,3% sotto Maduro. Il petrolio rappresenta il 96% delle esportazioni del paese. A proposito di Fiom e CGIL, eccola qui l'intervista a Maurizio Landini, la trovate alle pagine 6 e 7 di Libero. Conta più la CGIL del PD, non scendo in politica, i partiti chi li vota più. Sono anch'io per abbassare le tasse, ma ai lavoratori. Basta leaderismi, di Renzi mi fido poco, Macron è nazionalista e fa bene, Trump lo studio. Una segnalazione, un'altra intervista dal Fatto Quotidiano a Roberto Fico, che è un esponente di punta del Movimento 5 Stelle, alla domanda io candidato premier, vedremo in settembre, confermo la volontà di fare una consultazione popolare sulla moneta unica, sull'euro, e torna sulla, quando gli si chiede della crisi che è in atto nella giunta del sindaco Raggi, ma la crisi è della città, bene i piccoli passi a Roma ci hanno lasciato maxi debiti. E poi un'intervista, e in questo caso mi chiedo davvero, ma che senso ha intervistare di nuovo Antonio Razzi per ridere? Cioè un'intervista ridicola, perché le risposte, naturalmente, come potete immaginare, di Razzi, non si sa bene se è Razzi o se è la caricatura che ne fa Maurizio Crozza. Vi leggo il titolo, tanto per darvi un'idea, però davvero mi chiedo, ci si diverte ancora, si sorride ancora delle parole di Razzi? Ha un senso intervistarlo? La mia risposta naturalmente è no, però il titolo dell'intervista è "Ora basta, ve lo dico così, due punti, questi si fanno i cazzi loro". Interessantissimo approfondimento di Gian Giacomo Migone sul Fatto Quotidiano riguarda il G8, ancora una volta il G8 di Genova del 2001, ma soprattutto del 2011, del 2011, certo, era il 2011, me lo ricordo perché era l'estate dopo che sono arrivata al Sole 24 Ore. Forse l'avete, qualcuno di voi l'ha letta, sulla Repubblica del 19 luglio è apparsa una intervista di Carlo Bonini a Gabrielli, che è l'attuale capo della polizia, e con delle parole importantissime sulla G8 di Genova, e che si tenne dal 19 al 22 luglio del 2001. Secondo Amnesty International, ma anche secondo Gabrielli, in quei giorni si compì quello che viene definito uno dei più gravi episodi di sospensione della legalità repubblicana. E quello che si chiede è Gian Giacomo Migone è: Genova G8, chi ha paura di Gabrielli? Anche la più vistosa delle interviste solitamente ha vita breve. Coloro che fanno i giornali sono i primi a saperlo. Ebbene, l'intervista che Francesco Gabrielli, capo della polizia in carica, ha concesso a Carlo Bolini non dovrà avere quel destino, perché chi ha dimestichezza con la storia della nostra Repubblica sa bene che si tratta di una vera e propria svolta, anche se dipende da noi renderla effettivamente tale. Per esempio, viene riportata questa domanda: perché De Gennaro non mantenne le sue dimissioni rivelate dall'ex ministro Scajola? De Gennaro era il capo della polizia all'epoca dei fatti di Genova. E la risposta di Gabrielli in quell'intervista del 19 luglio concessa a Repubblica: la sua carriera si spiega anche con ciò che accadde nel 2001 e poi nel 2011 e poi con il ritiro di quel gesto. E davvero, io so che il G8 è uno di Genova del 2011, è uno di quei temi che solleva sempre molte reazioni molto, molto diverse, anche contrapposte. Anche qua sarebbe bene riflettere sui fatti e ascoltare, per esempio, appunto quello che ha avuto da dire l'attuale capo della polizia Gabrielli su quello che è successo a Genova. A proposito di Crozza, perché qui c'è un'intervista a un altro dei personaggi che poi lui imita, che è lo chef vegano, vegetariano, Simone Salvini. Perché questo ritratto? Perché la pagina 20 del Corriere della Sera, con un lungo articolo di Sara Gandolfi, ci parla del mondo vegano che ci sarà nel 2067. Carne addio in 50 anni, questa è la previsione, in realtà contenuta anche in una nuova fiction della BBC, da qui appunto il fatto che l'articolo di Sara Gandolfi sia scritto da Londra, e questa fiction racconta ridendo una crescita impetuosa. In Italia gli adepti sono ormai 1,8 milioni. Vi segnalo, chi non compra il Corriere della Sera a Milano non potrà vedere questo articolo, ma credo ci sia su internet, sulla questione dei vaccini. Ne abbiamo parlato brevemente prima, sul fatto Sole 24 Ore si interroga su come ora verranno attuate dalle regioni i vincoli imposti dal decreto che rende la vaccinazione obbligatoria, rende 10 vaccini obbligatori. Torniamo su una delle ragioni che hanno spinto a questo decreto legge. Per esempio, a Milano ci sono 100 casi al mese di morbillo, brusca impennata nel 2017, e all'interno una ricercatrice, Antonella Mendola, responsabile del centro di ricerca della rete Moronè di Via Pascal, negli spazi dell'Università Statale, dice: noi siamo sulle tracce del virus per fermare il focolaio, quindi la situazione potrebbe anche peggiorare. A proposito di sport, in questo caso di atletica, a pagina 30 del Corriere della Sera una bellissima intervista di Gaia Piccardi a Usain Bolt, perché Usain Bolt è molto vicino al ritiro, il lampo nei 100 e nella 4% da venerdì al Mondiale di Londra, e poi appunto ha detto che lascerà. Lascio senza eredi, poi dormirò fino a tardi e mangerò schifezze. Perché naturalmente, anche se ha la fama dello spericolato, dell'uomo a cui piace vivere una vita un po' spericolata fuori dai campi di atletica, in realtà credo che tutti noi capiamo che un po' è personaggio, perché per raggiungere i risultati che ha raggiunto Usain Bolt, altro che mangiare schifezze e dormire fino a tardi. L'ultima segnalazione che vi faccio è dal supplemento culturale del Messaggero, che si chiama Macro, in edicola ogni giorno. Questa la copertina di oggi è Eroi, la verità sui nomi diventati leggenda. Che cosa c'è in un nome? Moltissimo. La scelta per molti dei personaggi che hanno popolato la nostra immaginazione è spesso cruciale. E quindi si prende spunto per questo excursus da un libro appena pubblicato che si chiama Perché Sherlock si chiama Sherlock. Ma era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.